Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, da Pietro Laccorte in regia. Se vi leggo lo European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, probabilmente direte di cosa sta parlando. Bene, l'acronimo, d'altra parte servono anche a questo, è Erasmus, quello che è di gran lunga il più noto tra i progetti europei, un progetto che nasce nell'87 per opera della Comunità Europea ancora e sancisce la possibilità a uno studente universitario di effettuare in una università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università. Ora ci siamo abituati, ma è stato davvero un momento di cambiamento culturale, un grande successo che raggiunge quota 3 milioni. Il servizio di Raffaella Calandra. Soy italiano, alemán, danés, inglés y español. Lo conosco da sempre perché prima ho visto il film Partenza Spagnolo e poi all'università se ne è sempre parlato. Un esame a Napoli, l'altro a Madrid, un seminario a Roma, l'altro a Berlino. Biglietto aereo e libretto universitario in mano, i figli dell'Erasmus sono i primi veri cittadini d'Europa e crescono sempre di più. Sono stati già 3 milioni gli studenti che hanno frequentato atenei stranieri nei 25 anni di vita del progetto comunitario che, nel segno del filosofo olandese, ha contribuito per primo a fare gli europei dopo che era stata fatta l'Europa e anche, o forse ancor di più, ora in tempi di crisi, uscire dai propri confini è considerata un'opportunità, tanto che gli ultimi dati della Commissione Europea per l'anno accademico 2011-2012 registrano un aumento del 9% delle borse di studio concesse rispetto ai precedenti 12 mesi. Un programma più importante che mai in tempi di elevata disoccupazione giovanile, commenta soddisfatta la commissaria europea per l'istruzione e la cultura Andrulla Vassiliou. Tre soprattutto i paesi storicamente cuore dell'Erasmus, riporta il portavoce del settore educazione e gioventù Dennis Abbott. Le destinazioni più popolari sono Spagna, Francia e Germania. Nel caso della Spagna, manda i propri studenti nella maggior parte dei paesi e riceve studenti da ogni paese. Questi tre storicamente sono stati i paesi cuore del progetto Erasmus. Ma a parte una o due eccezioni, il numero degli studenti che hanno partecipato all'Erasmus è in crescita in ogni stato dell'Unione Europea. Dunque Spagna, Francia e Germania sono le mete più richieste e il paese iberico il primo per partenza di studenti, che aumentano però pure in Italia, 23.000 nell'ultimo anno. I laureandi europei che arrivano da noi scelgono soprattutto l'Alma Mater di Bologna, terzo ateneo più gettonato dopo Granada e Madrid. Ad attirare la storia dell'università più antica del mondo occidentale e la fama della città delle due torri, come sa bene Carla Salvaterra, prorettore dell'ateneo con delega alle relazioni internazionali. C'è un fattore in più che è molto importante, che è l'investimento che in questi anni è stato fatto da una rete molto vasta di docenti per allacciare rapporti di reciprocità con molti atenei. Ci sono alcuni paesi in particolare da cui provengono questi studenti? La distribuzione degli studenti in ingresso è molto ampia, quindi vengono da tutti i paesi ammessi alla partecipazione al progetto, che è più ampia di quella dei paesi dell'Unione. La maggior parte viene dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Sei mezzo secolo di vita, l'esperienza internazionale ha aumentato l'occupabilità dei figli di Erasmus, come nota il commissario Vassiliou. Dall'anno prossimo il progetto europeo più popolare diventa Plus. 40% di fondi in più per 16 miliardi di euro e l'obiettivo di aiutare 4 milioni di giovani in 7 anni a studiare all'estero. Due in particolare però i problemi lamentati soprattutto dagli studenti arrivati in Italia, i costi e la difficoltà di alloggio. Ed è su questo forse che gli enti locali dovrebbero affiancarsi ancor di più all'Europa, come auspica da Bologna la professoressa Salvaterra. Questo è evidente che il contributo comunitario è abbastanza limitato, però molti sforzi vengono fatti sia dai governi nazionali, dal nostro ministero e dalle singole università per aumentare questo contributo. Sempre più Erasmus per fare sempre di più gli europei oltre che l'Europa. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Grazie allora Raffaella Calandra, l'appuntamento con l'Europa domani a partire dalle 13.10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.